Letture di Radio 24. Progettare attentati di matrice islamica non costituisce reato. Non è uno scherzo, ma è la sentenza emessa dai giudici della Corte d'Assise di Monza, che hanno assolto Abdelkader Ghaffir e Rachid Ilami, due marocchini accusati di terrorismo internazionale e concorso esterno ad Al-Qaeda e che, in base alle indagini della Procura di Milano, avrebbero progettato attentati a caserme, supermercati e centri commerciali di Milano. Il concorso esterno in associazione a delinquere, tanto invocato quando coinvolge uomini politici, a quanto pare non vale quando riguarda due extracomunitari. Quanto deve essere anticipata affinché sia efficace in chiave anti-attentati, ma nel contempo non sia liberticida, la soglia dell'intervento repressivo antiterrorismo? È la delicata questione sottesa al processo di Corte d'Assise a Monza, nel quale due cittadini marocchini, per il solo fatto di possedere ed entusiasticamente commentare materiale scaricato da internet inneggiante alla Guerra Santa e di aver poi vagheggiato nel 2007, nelle loro telefonate intercettate, di far saltare la caserma dei carabinieri di Giussano o esplodere le auto del supermercato Esselunga di Lissone, sono stati prima arrestati nel dicembre 2008, poi detenuti in custodia cautelare per 1 anno e 7 mesi, quindi candidati dalla procura a 8 e 5 anni di condanna e infine assolti dall'imputazione di concorso esterno in associazione terroristica internazionale. I giudici d'assise monzesi, presidente l'ex GIP di Mani Pulite Italo Ghitti, estensore l'ex GIP dell'inchiesta su Previti e le toghe corrotte Alessandro Rossato, motivano la soluzione con il fatto che gli imputati Rachid Ilami e Abdelkader Ghaffir non hanno mai avuto contatti con persone sospettate di terrorismo, non hanno detenuto armi o fatto sopralluoghi, non hanno svolto alcuna attività preparatoria, non gli sono state trovate piantine di obiettivi. Eppure gli stessi giudici precisano che ciò non significa che il progetto, inteso come mero parlare di attentati, in sé non abbia rivestito caratteri di pericolosità. Anzi, stimano fuor di dubbio che gli imputati hanno avuto il proponimento di compiere gli attentati, e perciò rimarcano il valore del lavoro della Digos e applicano agli imputati assolti la misura di sicurezza di 2 anni di libertà vigilata, nel frattempo superata dal fatto che il Ministero dell'Interno, in via preventiva, li ha espulsi in agosto. In Italia la consultazione di siti internet, la visione o il download o la distribuzione di filmati di terrorismo non è inserito, diversamente ad esempio dalla Gran Bretagna, dove dal 2000 è punito con 7 anni di carcere. E ad inquietare è proprio quella nuova forma di estremismo, esemplificata da Game, l'attentatore fattosi esplodere davanti alla caserma milanese Perrucchetti e condannato a 14 anni, nella quale giovani di seconda generazione si radicalizzano da soli attraverso l'indottrinamento via internet. Ma la sola appartenenza all'area dell'integralismo e persino l'eventuale favore espresso verso forme di azione militare aberranti per l'esaltazione della violenza e la diffusione del terrore, non possono bastare a integrare il reato, da 15 anni di pena, di terrorismo internazionale. Pena un'anticipazione dell'intervento penale talmente arretrata da finire per reprimere non i fatti, ma le idee. Con la singolarità in più che alte grida contro il concorso esterno in un'associazione a delinquere si levino solo quando gli imputati, magari di mafia, sono illustri politici e colletti bianchi, e non quando sono due extracomunitari. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Ferrarella, Progettare attentati della Jihad non è reato, dal Corriere della Sera del 7 ottobre. Letture di Radio 24. Non tutti sanno che le schede elettroniche delle lavatrici contengono una piccola quantità di oro. E pochi grammi di oro si possono trovare anche nei computer e nei cellulari. Tutti noi viviamo con una piccola fortuna in casa, spesso senza saperlo. Ma c'è chi fa affari riciclando queste piccole quantità di metallo giallo. La protesi a 18 carati del premolare? 80 euro. Lo spillone da 40 grammi ereditato dalla prozia? Almeno 750 euro. Più gli spiccioli che si possono ricavare con le mini pepite nascoste in lavatrice, nel computer di casa o tra i circuiti del nostro telefonino. Altro che Klondike, Sudafrica o Australia. La corsa all'oro del terzo millennio ha cambiato volto. Basta badili e padelle, fango e sudore. Oggi la più grande miniera al mondo è casa nostra. E il suo filone più promettente, la pattumiera. Tutti noi viviamo circondati, a volte senza saperlo, da una piccola fortuna in metalli preziosi, dice Andrea Squarcialupi, titolare della Chimet, un Eldorado toscano da cui escono 500 kg di lingotti al giorno. I gioielli di famiglia e il servizio da tavola in argento ereditato dalla zia sono solo la punta dell'iceberg. In un chilo di schede madri di PC ci sono da 0,1 a 200 grammi di oro. Nei vecchi cellulari della Motorola addirittura 0,4 grammi. E persino dai videogames riusciamo a ricavarne 3 grammi al quintale. Così oggi, con le quotazioni volate a 1.310 dollari l'oncia, 42 euro al grammo, e la crisi finanziaria che morde i conti degli italiani, è scattata una nuova era, quella dell'oro di seconda mano. Le famiglie liquidano i loro gioielli per far quadrare i conti di casa. I compraoro nel nostro paese sono quintuplicati in meno di 2 anni, mentre le grandi aziende di riciclaggio hanno iniziato a rastrellare pattumiere e discariche, dove, tra circuiti elettronici, rifiuti ospedalieri e filtri d'aerei, è nascosto un gigantesco tesoro in oro e argento. Gli ori di famiglia, una collana per il mutuo della casa, il braccialetto della nonna, a malincuore, per trovare i soldi per riparare l'auto. Il boom dell'oro ha regalato negli ultimi mesi agli italiani un'arma in più per tappare i buchi nei bilanci di famiglia. Beh, è innegabile. La fila in coda ai nostri sportelli di recente si è allungata, ammette Angelo Mallardi, titolare della Compro Oro, 2 uffici a Bergamo e Milano. Certo, non tutti sono all'ultima spiaggia. 3 giorni fa una signora mi ha venduto 240 grammi d'oro per comprarsi un Harley Davidson. Ma almeno il 20% delle persone viene qui per far fronte a problemi finanziari urgenti. In pochi mesi in Italia sono spuntati 8.000 negozi che comprano metalli preziosi di seconda mano, con un giro d'affari decollato a 3 miliardi l'anno. Arrivano per lo più gioielli di fascia bassa, quasi sempre d'oro giallo, come andava di moda tanti anni fa, spiega Francesca Batacchi della Oro Cash, 350 punti vendita nel paese. Noi paghiamo 19 euro al grammo l'oro e 20 centesimi l'argento, dice Mallardi, il 30% in più di un anno fa. Una tentazione troppo forte per chi fatica ad arrivare a fine mese. E così molti hanno svuotato solai e cassapanche, riesumato oggetti dimenticati nelle cassette di sicurezza e sono passati all'incasso. Ci arriva di tutto. Enormi candelabri d'argento, orologi d'epoca, continua Batacchi. Molti li rivendiamo. Il resto lo giriamo a chi fonde di nuovo il metallo. Denti d'oro? Compriamo pure quelli, ammette Mallardi. Quelli nuovi sono in titanio, valore zero, ma quelli vecchi contengono il 33% di metallo giallo e un dente può valere anche 80 euro. Il business tira, se è vero che le protesi di Winston Churchill sono state vendute all'asta a Londra per 15.200 sterline, mentre nel cimitero di Staglieno a Genova sarebbero stati riesumati diversi cadaveri, la magistratura sta indagando, solo per riciclarne canini e molari. Una miniera in discarica. La corsa del prezzo delle materie preziose ha però avuto un altro effetto collaterale, il boom del loro riciclo. Oro e argento non diventano solo anelli, collane, posate o oggetti d'arredamento. Anzi, negli ultimi anni il loro utilizzo industriale è decollato. Si fondono verghe e lingotti per sfruttare nei circuiti elettronici l'ottima conduttività del metallo giallo. L'oro si usa per creare i rivestimenti di molti satelliti e come ingrediente principe di medicinali antireumatici. L'argento è uno dei componenti fondamentali degli specchi d'arredamento. È stato per decenni uno dei materiali base per l'industria fotografica. La NASA lo utilizza per i filtri dello shuttle, le grandi compagnie aeree per purificare l'acqua di bordo. In forma colloidale è uno straordinario antibatterico utilizzato da tutti i big della farmaceutica. Quando l'oro viaggiava a 700 dollari l'oncia, nessuna faceva caso a dove finisse tutto questo ben di Dio. Oggi tutto è cambiato. Si recuperano i telefonini. Da 1 milione di cellulari si ricavano 37,5 kg d'oro, 386 d'argento e 16,5 di palladio, le lavastoviglie, i computer, le TV e le batterie d'auto. Noi ricicliamo soprattutto segatura d'oro, lo scarto del lavoro d'oreficeria, ma anche tanta elettronica, racconta Squarcialupi della Chimet. L'estrazione della parte preziosa è relativamente semplice. Prendiamo le schede madri dei PC, il filone più ricco del metallo di seconda mano. si macinano una prima volta, si bruciano e poi si rimacinano, racconta l'imprenditore toscano. Poi si seleziona con sofisticati procedimenti il composto ottenuto, si passa alla fusione e si separa l'oro. Durata del processo 10 giorni, al cui termine si ricava oro 999,9, purissimo, in lingotti da 1 kg o barre da 12 kg. Alla Chimet se ne producono 500 kg al giorno. Una fortuna protetta 24 ore su 24 da una dozzina di guardie fisse. Intere città in India e Cina campano oggi proprio grazie all'industria del recupero dei materiali preziosi. Loro fanno i lavori a più alto volume, soprattutto il riciclaggio di elettrodomestici, marmitte e batterie. L'Europa ha un know-how specifico per gli interventi più sofisticati. Obiettivo: non perdere nemmeno una pagliuzza di metallo giallo. Un'antica raffineria d'oro inglese, costretta a ristrutturare i suoi impianti, ci ha inviato il suo vecchio pavimento di legno, racconta Squarcialupi. Erano 23.000 kg di listelli. Li abbiamo trattati e alla fine sa quanto oro abbiamo ricavato? 60 kg. Valore ai prezzi attuali di questa spremuta di parquet? 2,3 milioni di dollari. E pensare che c'è gente che l'oro, invece che sotto i piedi, va a cercarlo sottoterra. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ettore Livini, Appeso d'oro, da Repubblica del 30 settembre.